si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, ben ritrovati. 7:33 minuti, inizia un nuovo weekend insieme, si può fare il buongiorno di Radio 24 il sabato e la domenica mattina. Allora, iniziamo tra poco leggendo i giornali di oggi, poi una rassegna stampa veloce che ci accompagna fino al giornale radio delle 8. Poi i nostri approfondimenti, cominciamo parlando del reddito di solidarietà oggi introdotto questa settimana in Emilia-Romagna. Una proposta del Movimento 5 Stelle, reddito di cittadinanza, trova una declinazione nuova in questa regione. Staremo a capire se è una misura in grado di aiutare le persone che hanno più bisogno, almeno in quella regione. I nostri contatti, se volete interagire con noi subito, 349-238-6666, la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ si può fare 24. Vai, iniziamo. E allora, giornali di oggi che sono in gran parte dedicati, almeno nelle pagine iniziali e sui titoli, alla vicenda di Roma, con l'arresto del dirigente del personale considerato a torto a ragione braccio destro del sindaco Virginia Raggi, l'inchiesta diversa ma gemella perché riguarda l'altra grande città italiana, Milano, e il sindaco Sala che si è autosospeso perché è indagato. C'è anche un'intervista a Raffaele Cantone, autorità nazionale anticorruzione, che spiega alcuni elementi sull'inchiesta che riguarda Sala per l'appalto della piastra dell'Expo. Cominciamo con un titolo che riguarda Roma, il Messaggero. Raggi in bilico, Grillo la scarica. Così il titolo del quotidiano romano, che tra l'altro entra anche il Messaggero in qualche modo nella vicenda giudiziaria, perché una delle cose che viene imputata a Raffaele Marra è di essersi rivolto al suo amico, l'imprenditore immobiliarista, quello che ha fatto i soldi con gli affitti dei palazzi alla Camera e al Senato, e gli chiede un aiuto per avere una buona stampa, una buona immagine sulla stampa, proprio tramite Caltagirone sul Messaggero. Dalle inchieste però risulta che Caltagirone poi non sia stato mai contattato, ma insomma questa era un po' la trama. E allora siamo partiti da questo titolo, ma il Corriere scrive: arresto a Roma, Grillo scarica la Raggi, lo stesso verbo usato anche dal Messaggero, Grillo che scarica Virginia Raggi. Roma, Raggi isolata dopo gli arresti, scrive Repubblica. Grillo alla sindaca: è solo colpa tua. Roma, i grillini processano Virginia Raggi, la Stampa. E insomma questo è un po' il tono di tutti i giornali. C'è chi, come il Fatto Quotidiano, mette insieme le due inchieste: una retata li seppellirà. Dopo il referendum salta il tappo delle inchieste sulla politica. Milano, Sala indagato si sospende. Roma, arrestato Marra, fedelissimo della Raggi. Allora, intanto un piccolo retroscena su la telefonata di ieri tra Beppe Grillo e Virginia Raggi. Lo scrive Fabrizio Roncone sul Corriere e scrive così: Virginia Raggi riceve la telefonata di Beppe Grillo alle 10 del mattino. Il sindaco, nel suo ufficio con struggente vista fuori, vede comparire il nome del capo sul display del cellulare. Sa cosa lo aspetta. Roncone riferisce quello che gli è stato riferito da una fonte che era presente a questo incontro, evidentemente, quindi poi bisogna credere anche all'attendibilità del giornalista del Corriere, ma insomma sa cosa l'aspetta. Grillo certe volte, quando è furioso, diventa serio, durissimo, la voce gli diventa ancora più sottile, aumenta l'inflessione genovese, le parole diventano lame, parla solo lui, le rimprovera di essersi circondata di persone ambigue, di aver coinvolto il Movimento 5 Stelle in un tragico storia di tangenti, di assistere inerme all'agonia della città, le intima di trovare un rimedio, fino ad evocare il ritiro del simbolo del Movimento 5 Stelle alla lista che sostiene Virginia Raggi. Lei muta. Lui si placa solo dopo un po'. A questo punto Virginia Raggi balbetta qualcosa, il cui senso è: ti chiedo scusa. Scuse che poi sono state riferite anche in pubblico in conferenza stampa Virginia Raggi, che ha chiesto scusa proprio personalmente anche a Beppe Grillo, che uno potrebbe dire chi se ne frega, perché tu sei il sindaco di Roma, non sei il sindaco di Beppe Grillo. Ma questo è diciamo come si collega un po' questo la conferenza stampa di ieri con questo retroscena. Dio mio Beppe, qui adesso viene giù tutto, inizia a tremare, tossisce, Grillo ancora in linea, la sente chiedere un po' d'acqua e intuisce, le dice di non perdere la calma. In queste situazioni l'ultima cosa da fare è perdere la calma, ci penseranno loro a buttare giù due righe da leggere ai giornalisti, e così è stato. Lei in questa conferenza stampa ha letto sostanzialmente un comunicato, poi non c'è stato modo di fare domande da parte dei giornalisti e di avere risposte, ma questo non è la prima volta che accade, né a lei né ad altri esponenti politici. La Raggi a questo punto resta sola, e non è solo un modo di dire, perché Marra gliel'hanno arrestato, il suo fidato braccio destro. Lei ha detto: il braccio destro mio sono i romani, non era Marra, però inutile negare l'uomo ombra che la circondava, insomma tutte le, basta vedere le foto degli incontri, i primi incontri istituzionali c'era lei e a fianco c'era sempre Marra, per cui insomma, se non era braccio destro era comunque una figura di primo piano della giunta Raggi. Paola Muraro, assessore all'ambiente, che avrebbe dovuto risolverle il drammatico problema dei rifiuti, indagata per i reati ambientali, si è dovuta dimettere. Salvatore Romeo, il capo della sua segreteria politica, è dentro i fascicoli della procura che sta accertando eventuali abusi sulle nomine. La solitudine della Raggi. Ma cosa emerge a proposito di Raffaele Marra? Sempre sul Corriere, Fiorella Sarzanini. Elementi dell'inchiesta sono questi: nel giugno scorso, messo sotto attacco da numerosi personaggi di primo piano del Movimento 5 Stelle, perché Marra era già in odore di corruzione, secondo varie inchieste giornalistiche che poi si sono rivelate evidentemente fondate, poi naturalmente siamo ancora in attesa di giudizio, questo è evidente, quindi il beneficio del garantismo da questo punto di vista va concesso a Marra, ma insomma c'erano queste inchieste che parlavano di lui come un personaggio potenzialmente corrotto, perché per questi sconti che aveva ricevuto sulle case, un paio di case comprate a prezzi stracciati, vendute dall'immobiliarista che lui da dirigente del Comune di Roma faceva lavorare, e come, adesso vedremo come. Insomma, telefona alla segreteria di Sergio Scarpellini, appunto l'amico immobiliarista, per avere una campagna di stampa favorevole. E questa è la telefonata: se Sergio può intervenire con Gaetano Calta puntini puntini per farmi avere una mano, Caltagirone ovviamente, sui giornali, cioè capire se nel senso proprio per cercare in qualche modo di tutelare la mia posizione, se no diventa un grande puntini puntini, una complicata questione. La segretaria che risponde a Marra: domani glielo chiedo sicuramente. E Marra che risponde: io sto a disposizione, in modo tale da cercare di avere una visione diversa, che lui possa dire: ma come, adesso lo avete nominato, ora che fate? Allora vuol dire che comandano quelli di Milano, quelli di Torino, insomma far capire che se mi scaricano c'è un danno enorme alla sua credibilità di Virginia Raggi, alla sua immagine. Poi, come abbiamo già detto, secondo le verifiche dell'inchiesta, Caltagirone non è mai stato contattato. Questo è solo un passaggio, perché non ci sono soltanto gli appartamenti che l'amico costruttore Scarpellini gli avrebbe regalato. L'indagine coordinata dal procuratore Ielo porta anche a una compravendita di barche, soprattutto a soldi che sarebbero stati depositati all'estero in alcune banche di Malta, dove tra l'altro la moglie e i figli si sono trasferiti. Per questo, tra i reati ipotizzati c'è anche il riciclaggio. Chi è Scarpellini? È l'imprenditore di cui si è a lungo parlato, contro il quale pure i 5 Stelle si erano scagliati negli anni passati, perché è l'imprenditore, l'immobiliarista che ha affittato un sacco di palazzi alla Camera e al Senato a prezzi elevati, a prezzi altissimi, alle stelle. Adesso vedremo alcuni di questi canoni. Per esempio, un palazzo in centro a Roma di 3.000 metri quadri vicino al Pantheon, così malandato, scrive Gian Antonio Stella sul Corriere, che la ristrutturazione quasi tutta a spese del Senato, che iniziò a pagare l'affitto quando era ancora un rudere, costò 9.000 euro al metro quadro, finendo poi per pesare sul bilancio conclusivo 7 volte più di quanto valutato da una perizia del demanio. Oppure un altro palazzo affittato alla Camera da Scarpellini per 2,1 milioni di euro l'anno dall'INPGI, l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani, ha affittato a Scarpellini un immobile per 2 milioni di euro. Scarpellini lo ha subaffittato alla Regione Lazio per 9 milioni di euro, cioè lo pagava 2 e lo affittava 9. Affari incredibili per lui, non tanto per noi che pagavamo questi affitti. Oppure ancora un altro immobile, l'Hotel Bologna, trasformato in uffici per 86 senatori al modico costo finale di 81,6 milioni di euro, senza che Palazzo Madama restasse alla fine un solo mattone. Cioè la Camera e il Senato pagavano canoni altissimi, avrebbero fatto prima a comprarseli tutti questi palazzi, sicuramente. Pensate che dal 1983, quando gli affitti calcolati con l'euro di oggi della Camera valevano 868.000 euro, oggi valgono 35.625.000 euro, 41 volte di più. E questo è cosa nota, ripeto, una cosa contro la quale stesso Movimento 5 Stelle in passato si è scagliato. E la cosa strana, semmai, è capire come sia stato possibile che Marra sia diventato un esponente importante dell'amministrazione, non della giunta, ma dell'amministrazione Raggi, uno così in odore di corruzione. E proprio su questa tematica, tanto è vero che non si tratta solo di accuse che arrivano da fuori al Movimento 5 Stelle, ma bensì arrivano dall'interno, perché l'onorevole romana Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, tempo fa è stata, si è saputo soltanto ieri, in procura a depositare un esposto contro Marra proprio per tutte queste questioni. Quindi accuse che non arrivano dal di fuori, ma arrivano anche dall'interno e sono arrivate dall'interno del Movimento 5 Stelle. Ecco perché è grave la posizione della Raggi, perché gli è stato detto, è stata avvertita da Grillo anche all'interno del Movimento su questa figura in odore di corruzione che andava scaricata proprio da parte del Movimento 5 Stelle, che puntava tutto sul cambiamento. E allora com'è stato possibile? Una domanda alla quale fino ad ora non c'è ancora risposta, ma i poteri forti in questo caso non hanno il volto o le sembianze di banche o di eminenze grigie che vengono dal Vaticano o di multinazionali, sono semplicemente le fattezze anche raffinate di questo signor Marra, che aveva 3 lauree, che aveva un passato alla Guardia di Finanza, che sicuramente aveva anche delle competenze, ma che nel tempo aveva accumulato tutta una serie di relazioni sue personali che andavano a suo tornaconto, ma che diciamo utilizzava anche nel momento in cui faceva il dirigente del Comune di Roma al settore appalti, al settore case popolari e alloggi, insomma, dal quale poteva gestire il potere che poi gli ritornava sotto forma di favori. Ecco Roberta Lombardi che dice: certo, ho fatto quella denuncia, è mio dovere di parlamentare segnalare abusi di cui vengo a conoscenza. Sapete che vi dico, meno male che ci sono i giornalisti d'inchiesta. Quindi piccolo momento di riconciliazione tra Movimento 5 Stelle e i giornalisti. Aveva sofferto molto Roberta Lombardi il giorno in cui Beppe Grillo, spinto proprio dalla Raggi, l'aveva estromessa dal mini direttorio di Roma, che doveva collaborare con la sindaca. Aveva parlato di rinuncia per i troppi impegni personali, ma non aveva smesso di contrastare lo strapotere di Marra in Campidoglio, fino a scrivere: è il virus che ha infettato il movimento. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, ascoltatori. E sui giornali di oggi si leggono soprattutto elementi che riguardano appunto l'inchiesta che ha portato all'arresto di Raffaele Marra a Roma, e poi c'è però anche l'altra inchiesta che riguarda il sindaco di Milano Beppe Sala. E per avere informazioni su questo possiamo andare a leggere per esempio sul Fatto Quotidiano, dove si spiega qual è l'inchiesta che ha coinvolto Beppe Sala. La Piastra, il sindaco, La Piastra per l'Expo, il sindaco indagato per falso materiale ideologico nell'appalto a 272 milioni di euro aggiudicato alla ditta Mantovani con un ribasso del 41,8%. Scrive Il Fatto: storia sospetta fin da subito, da quando la Guardia di Finanza indaga sull'appaltificio di Infrastrutture Lombarde diretto dall'ingegnere Antonio Rognoni. È un po' complicata la vicenda, ma cerchiamo di seguire il filo. Ulteriore benzina sul fuoco arriverà nel 2014 dai PM di Venezia e dalle dichiarazioni dell'ex amministratore delegato di Mantovani, Pier Giorgio Baita, che stava lavorando al MOSE in quel momento. Non basta, almeno per la procura, che chiede e ottiene, ma non ottiene, scusate, l'archiviazione. La procura di Milano chiede l'archiviazione e non la ottiene. Tutto viene, l'inchiesta viene avvocata al sostituto procuratore generale Isnardi, che studia per un mese le carte. Quattro giorni fa iscrive Sala nella lista dei sette indagati e chiede una proroga delle indagini fino al 17 giugno 2017. Reato contestato, ecco il punto: falso materiale commesso il 30 giugno 2012, data che coincide con una intercettazione telefonica nella quale l'avvocato Carmen Leo commenta l'incompatibilità di due membri della commissione di gara per l'assegnazione di questa benedetta piastra, cioè la struttura principale su cui si innestavano poi tutti i padiglioni dell'Expo. Questa commissione istituita da Sala il 15 maggio precedente, qua siamo al 30 maggio, telefonata. Questi, dice l'avvocato, si devono dimettere, sparire, devono dire o senza motivazione o per impegni lavorativi che non riescono a rispettare il calendario dei lavori che si è data alla commissione. Questi, spiega Il Fatto Quotidiano, sono Alessandro Molaioni e Antonio Acerbo, ex subcommissario di Expo, che nel 2015 patteggia 3 anni per una turbativa d'asta per le vie d'acqua. Entrambi sono incompatibili. Allora, ci sono due membri incompatibili a stare nella commissione che deve aggiudicare questo appalto. Questa cosa viene detta il 30 giugno al telefono, ma siccome la decisione presa sulla commissione da Beppe Sala è datata 17 maggio, scusate, il 30 maggio c'è l'intercettazione, pochi giorni prima la decisione di Sala, e allora i giudici dicono: com'è possibile che la decisione sia stata presa prima che il fatto fosse si fosse reso evidente? Allora ecco il falso, cioè sarebbe stata falsificata la data sostanzialmente dell'istituzione di questa commissione, dove non c'erano più questi due membri che erano incompatibili. Questa è grosso modo il succo dell'inchiesta che riguarda Beppe Sala. C'è un'intervista interessante da Raffaele Cantone sulla Stampa che mette insieme un po' le due inchieste, ma soprattutto quella dell'Expo, di cui pure lui è stato garante dal punto di vista della corruzione, lo ha voluto il premier Renzi. È necessaria una premessa, dice Cantone. Il fatto contestato a Sala risale al 2012, mentre i nostri controlli sull'Expo sono iniziati nel 2014. L'appalto per la piastra era già stato commissionato 2 anni prima. Era evidente che quell'appalto, con quel ribasso di oltre il 40% e le modalità di assegnazione, destava qualche perplessità. Anche l'operato di Sala destava qualche perplessità, risponde Cantone. Noi abbiamo verificato gli appalti e anche l'estrema correttezza dell'allora commissario Sala, con il quale all'inizio ci sono stati rapporti difficili perché noi ficcavamo il naso dappertutto, ma poi, una volta prese le misure, Sala, per quanto mi riguarda, si è sempre dimostrato persona leale. Tutte le volte che avanzavamo dei rilievi, lui era sempre in linea con noi. Sulla sua correttezza ho verificato di persona. E poi via andare su questa inchiesta. Noi dell'appalto piastra ci siamo occupati per la fase successiva dei contratti e abbiamo trasmesso degli atti in procura. Bisogna però tenere conto del contesto particolare di estrema fretta in cui si è operato. C'è un giudizio, anche una domanda anche su Marra, ma lui non risponde, Cantone, perché su Marra gli è stato chiesto un parere proprio dalla Raggi sulle nuove nomine, un parere che però poi non è mai stato reso pubblico dal Movimento 5 Stelle e da Virginia Raggi su Raffaele Marra. Ma infatti Cantone dice: io su questo non posso parlare perché c'è l'indagine aperta. Allora, una notizia per chiudere ahimè, non è una bella notizia, ma così le isole di plastica spuntano nei nostri mari. Vi ricordate la questione dell'isola di plastica galleggiante che c'è negli oceani, tutti i pezzettini di plastica buttati, diciamo, lo sminuzzamento di quello che noi buttiamo nell'ambiente? Ecco, c'è anche nel Mar Mediterraneo, è il risultato di una indagine fatta dai biologi del CNR pubblicata da Scientific Reports, e dice che addirittura le concentrazioni di plastica nel Mar Mediterraneo sono superiori a quelle che ci sono nell'oceano, ahimè. Però c'è una risposta che può arrivare ed è questa: pannolini lavabili anziché pannolini di plastica. Sulla prima pagina della Stampa arriva l'emporio dei pannolini lavabili dopo internet. Un negozio a Cordenons, sono due giovani, una coppia di imprenditori di Pordenone che ha lanciato questo business dei pannolini lavabili che fa risparmiare all'ambiente una tonnellata di rifiuti all'anno per ogni bambino. Il kit ha un costo iniziale non rateizzabile di 450 euro, uno dice tanto, però pensate che si calcola che per l'usa e getta per ogni bambino si spendano 600 euro l'anno, e questo kit poi ti resta per il secondo anno, per il terzo anno, ma anche per i successivi bambini. Dunque, chi ha il coraggio di affrontare questa questione dei pannolini lavabili dà sicuramente una grossa mano all'ambiente. È tutto, c'è il giornale radio, poi ci ritroviamo subito dopo. Si può... Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance, feel good. 8 e 18 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati ascoltatori, vi aspettiamo 800 24 00 24 per stare con noi fino alle 10 di questa mattina. Carlo, Milano Monterosa. Aspettavo questa domanda perché l'unica risposta possibile è non si vede niente, c'è la nebbia, è tornata la nebbia a Milano, questo sì. è una notizia, si era autosospesa la nebbia per molti anni e adesso invece è tornata. Si era autosospesa, vuoi dire come il, come sindaco, il sindaco della città? Beh, esatto. Beh, sono momenti questi qua. Allora, cari ascoltatori, Vogliamo stare con voi questa mattina, come sempre, di sabato e di domenica, ma come sempre a Radio 24, 800 24 00 24. Raccontateci un po' quello che volete, microfoni aperti. Che so. Allora, intanto c'è la classifica della qualità della vita delle città italiane. Allora, noi vorremmo anche di cui ce ne occupiamo sempre. Ci piace tutti sempre gli molto, anni. Però siamo arrivati un po' in ritardo perché è di lunedì scorso, quella del Sole 24 ore, quindi adesso non stiamo lì a parlare di Oscar. È in ritardo, d'altronde andando in onda di sabato, se la classifica esce il lunedì, questo dovete prendere. Allora, però, se volete un po' ribaltarla, potete chiamare e raccontarci un po' anche quelle che sono le piccole eccellenze delle vostre città che magari non sono state osservate sufficientemente bene. E che se invece avessero osservato con attenzione, la vostra città sarebbe in un'altra posizione in questa classifica. Assolutamente. 800 24 00 24. E poi possiamo anche metterci lì un po' di ricette di Natale, perché hai visto che Google ha pubblicato la classifica delle ricette più cercate dai lettori, insomma, su Google. Tipo, per esempio, devo fare un mojito adesso, subito. Come si fa? È una delle più cliccate. È una delle più cliccate, incredibile. La prima però è il tiramisù. Tiramisù. Anche questa è un'altra cosa fondamentale nella vita. Va anche sottolineato che in realtà è una classifica particolare, perché non è che è per forza le cose più buone, è le cose più utili, o meglio, per esempio, le cose più difficili da fare, che uno non sa come fare, o anche le cose che uno è obbligato a fare, perché il classico che uno va su Google è: mi hanno chiesto che devo fare questa cosa, ma non so come si fa. Esatto. Quindi in realtà vi stiamo chiedendo non solo delle ricette buone, importanti, che secondo voi sono importanti, regione, ma quelle che proprio uno dice: quella lì come si fa? Se ho tre minuti per farla. Ma io sono rimasto un po' spiazzato, perché il primo è il tiramisù, poi c'è la caponata con i peperoni, tutte ricette abbastanza caloriche, poi c'è, per dire, le zucchine in campione. cose di questo genere, un'altra ricetta a base di biscotti al cioccolato, eccetera eccetera. Io in questi giorni sono andato a guardare soltanto cose tipo vellutata di porri e patate, cioè, mi sento veramente fuori dal mondo. Ma io faccio queste cose qua a casa, non so perché. Tu andresti a cercare la vellutata? Io la cerco oppure non so, la vellutata, adesso faccio solo vellutate di peperoni e tutte cose sane, naturali, così. A proposito di sane naturali, fra le domande che vogliamo farvi è anche questa: visto la pubblicità del panettone che ha fatto tanto arrabbiare i vegani, che dice quest'anno il panettone l'abbiamo fatto con il tofu invece delle uvette, ci mettiamo le bacche di goji, e poi in realtà alla fine dicono non è vero, noi il panettone lo facciamo come sempre con la nostra ricetta tradizionale, non abbiamo cambiato neanche una virgola in centinaia di anni. Ecco, vi chiediamo quale ricetta secondo voi non vorreste mai vedere in versione vegana. Diciamo, per dire la più semplice, un bollito misto senza carne è difficile, che poi qualcuno potrebbe dire non è vero perché si possono bollire anche le verdure. Vi aspettiamo come sempre anche oggi in palio due biglietti per la mostra di Basquiat allo splendido Mudec di Milano. Adesso però cominciamo parlando del reddito di solidarietà, una cosa importante. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica. E vabbè, dai, con questo Daniele Silvestri, 1.000 euro al mese. Diamo il buongiorno a Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, assessore al welfare. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, Gualmini, questa è la notizia: un investimento della Regione Emilia Romagna per finanziare un avete chiamato reddito di solidarietà, sono fino a 400 euro al mese, se ho capito bene, per 12 mesi al massimo, per una platea che avete immaginato di circa 80.000 persone che abbiano un reddito inferiore ai 3.000 euro. Ho dato un po' di cifre per inquadrare la cosa. Intanto voi dite si tratta di un provvedimento di giustizia sociale, non di assistenzialismo. Qual è la differenza? Sì, perché abbiamo appunto costruito questa misura completamente nuova, così, con queste caratteristiche, tra l'altro direi che è la prima in Italia, in cui di fatto diamo un aiuto economico a nuclei familiari, ma anche a persone senza figli, quindi anziani soli, che sono in condizioni, insomma, sociali davvero difficili, però in cambio di impegni ben precisi. Quindi a seconda delle persone coinvolte, noi abbiamo già costruito percorsi di inserimento lavorativo piuttosto che di formazione, oppure di reinserimento scolastico se ci sono minori, o se parliamo di anziani, inclusione in progetti, insomma, di magari solidarietà. E quindi tutta la misura si basa su un patto molto severo tra diritti e doveri, e se salta questo patto poi l'aiuto economico non viene dato. Questo perché non vogliamo fare dare delle mance o delle elemosine, ma vogliamo, insomma, che le persone poi rientrino in un circuito attivo della società. E sostanzialmente ci rivolgiamo davvero a quei nuclei che vivono in condizioni molto difficili, quindi parliamo di 3.000 euro ISEE, quindi in termini poi di euro sono cifre più grosse, come soglia 3.000 all'anno, ovviamente. Sì. E la misura dura 12 mesi, poi c'è un'interruzione che ci consente appunto di monitorare, di valutare bene se quello che abbiamo fatto funziona oppure no, e poi c'è anche la possibilità di un rinnovo. A differenza di tutte le politiche di contrasto alla povertà disegnate per esempio anche a livello nazionale, perché questo governo di fatto ha istituito un fondo contro la povertà, noi puntiamo all'universalità, cioè puntiamo a darlo a tutti con il solo requisito della soglia di reddito, quindi a prescindere dal fatto che ci siano minori o no, o che ci siano determinate caratteristiche. Tutti i cittadini della Regione Emilia-Romagna potranno fare domanda quindi speriamo davvero che la cosa funzioni. Però cioè, questa è la differenza al sostegno all'inclusione attiva, quello che già c'era, che però chiedeva la presenza all'interno del nucleo familiare di, appunto, come diceva lei, un minore oppure un figlio disabile oppure una donna in stato di gravidanza. Invece voi dite noi lo diamo a tutti a prescindere da queste caratteristiche. Esattamente, rimangono alcuni requisiti come i 2 anni di residenza presso la nostra regione, però la nostra idea, avendo poi fatto ovviamente degli studi su chi siano effettivamente le persone in condizioni di povertà estrema in Emilia Romagna, abbiamo scoperto che appunto anche il problema degli anziani, soprattutto donne tra l'altro sole, che hanno redditi bassissimi o pensioni davvero molto molto bassi, in Emilia Romagna è presente. Certo. Per cui non ci sentivamo di categorizzare la povertà, e purtroppo taglia trasversalmente molte categorie, e quindi proviamo a puntare ad un provvedimento largo. Senta, lei dice ci sono, c'è l'obbligo però di partecipare a dei percorsi di reinserimento sociale, di formazione, in assenza di questo impegno decade in qualche modo anche la misura di sostegno al reddito. Fa parte questo un po' di un nuovo modo di vedere il welfare? In parte già ce lo stava confermando, però glielo voglio chiedere, ci siamo trovati di fronte a questo, che so, quando ci sono le esperienze dei supermercati sociali nei quali alle persone che vanno a fare la spesa gratis perché sono in condizioni di bisogno si chiede però di fare delle ore di volontariato in cambio, oppure c'è il volontariato chiesto ai profughi che vengono ospitati nelle residenze pubbliche, eccetera eccetera. È un po' questo, cioè si dà e si riceve insieme? Esattamente, esattamente questo è il nuovo pilastro del welfare pubblico, anche perché diciamoci la verità, le risorse pubbliche purtroppo non sono infinite e non sono crescenti, e quindi è giusto costruire delle priorità e soprattutto assegnarle in maniera molto seria e molto equa. Quindi poiché noi non immaginiamo di creare gruppi di cittadini attaccati alla flebo dell'aiuto pubblico a vita, pensiamo che in cambio debbano appunto impegnarsi nel ricostruire appunto una vita dignitosa e attiva, altrimenti davvero queste misure finiscono in niente, e questo sarebbe, penso, il principale dei fallimenti. Ecco, tra l'altro ci siamo messi intorno a un tavolo con terzo settore, organizzazioni di volontariato, Caritas, centri per l'impiego, e quindi c'è un battaglione di soggetti pubblici e privati pronti a costruire questi patti di dare e ricevere, quindi insomma siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Ecco, dal punto di vista politico invece è interessante anche notare come le forze politiche si sono schierate su questa misura, che uno potrebbe dire non c'è niente di cui essere contrari, no? Però chiaramente poi ogni forza politica ha il suo punto di vista. Per esempio il Movimento 5 Stelle, che cavalca da tempo la battaglia del reddito di cittadinanza, si è astenuto, cioè non ha votato contro, però si è astenuto, quindi una mezza apertura. Dicono è un primo passo, ma non basta. La Lega, aggiungo solo questo, Gualmini, chiedeva una residenza, una durata di almeno 5 anni dalla residenza in regione prima di avere l'assegno. Voi avete scelto che bastano 2 anni per poter avere accesso a questo assegno. Esattamente, dunque qui sì, abbiamo trovato un po' bizzarra, me lo lasci dire, la posizione del Movimento 5 Stelle, perché insomma sicuramente la lotta contro la povertà e il reddito di cittadinanza sono tra le loro bandiere, quindi anche merito loro se questi temi sono entrati nell'agenda politica. Abbiamo anche collaborato su diversi punti, poi alla fine si sono astenuti, insomma l'abbiamo trovato un po' incomprensibile, perché poi è chi occupa posizione di governo che poi ha compito di fare le cose, non si riescono a fare dall'opposizione, però insomma speriamo poi di, nel corso del tempo, di ritrovare una sintonia. Ma loro realtà, come l'hanno motivata? No? Mi scusi se l'ho interrotta. Sì. Siccome sono molto d'accordo con quello che ha detto, sono molto d'accordo che sono temi che ha assolutamente portato il Movimento 5 Stelle nel dibattito politico, quindi è sicuramente anche grazie a loro. Però poi ci stupiamo sempre quando un passo viene fatto e loro si astengono e loro decidono di non decidere. Quindi mi chiedevo... La motivazione è sempre quella, cioè che non basta non mai, e quindi che la soglia di reddito è troppo bassa, che le risorse sono poche, però vi assicuro che trovare, tra l'altro dal bilancio regionale, 35 milioni all'anno strutturali da risparmi interni, quindi non da fondi europei o fondi nazionali, a cui si aggiungono fondi nazionali, quindi parliamo comunque di 80 milioni all'anno, non è stata un'operazione facile, c'è dietro una decisione politica forte. Sì, soprattutto non è molto interessante dirsi si poteva fare fare di più, nel senso che soprattutto nel momento in cui si sta cercando di fare qualcosa. Appunto, e poi cioè, noi siamo anche persone serie, quindi gli strumenti devono essere sostenibili, non posso mettere in piedi degli strumenti che poi mi accorgo che mandano a rotoli il bilancio regionale, quindi certo. Partiamo con risorse certe, con molta trasparenza e poi vediamo come va. In realtà sì. La Lega abbiamo fatto un'apertura, cioè sì. Il motivo per cui abbiamo messo i 2 anni è che tutte le misure ad oggi di contrasto alla povertà si basano sui 2 anni, quindi non volevamo complicare la vita ai comuni mettendo regole troppo diverse. Poi vedremo, diciamo, può essere concepito come un disincentivo a dire mi trasferisco momentaneamente in Emilia Romagna, mi becco il sussidio così e me bravissimo, ne vado. 2 anni non sono pochi, insomma, ci vuole quantomeno esatto. Una strategia di lungo periodo. Una domanda, lei parlava di un'ultima domanda, parlava di sostenibilità di questa misura, ma è una misura che avrà una continuità nel tempo, perché ci hanno provato in molti a fare dei sostegni al reddito, dal bonus bebè, ne dico una, a sostegni al reddito per chi è in difficoltà, come anche in Puglia, eccetera. Però spesso si tratta di misure, ahimè, che durano 1 anno e quindi nessuno può pianificare un'esistenza sulla base di queste cose. Voi pensate di andare avanti, una misura strutturale? Quanto durerà? Ma dunque, innanzitutto è assolutamente strutturale nel bilancio, nel senso che è una misura di mandato, quindi finché ci saremo noi, abbiamo ancora 3 anni e mezzo, la misura è programmata per tutti gli anni. In più noi prevediamo, dopo la pausa successiva ai primi 12 mesi, un rinnovo, quindi sostanzialmente non muore tutto dopo 1 anno, perché chiaramente non è detto che risolvi situazioni molto difficili nel giro di 12 mesi. Poi le dico, il primo anno è comunque di sperimentazione. Siamo anche disponibili ad apportare dei correttivi. Quello che ci interessa è che la misura sia efficace e quindi che davvero porti le persone, andrò a controllare personalmente, insomma, le riporti ad una condizione attiva e decorosa di vita, che è poi quello che ci interessa. Certo. Senta, a proposito, c'è una domanda che fa un'ascoltatrice al 3492386666. Tiziana dice: quale percorso formativo si può proporre a donne anziane povere in cambio di questo reddito di solidarietà? Gliela giro così com'è. Certo, ma quando parliamo di formazione, in realtà io prima mi riferivo ovviamente a quella fascia di età che più va giovane. Insomma dai 16 ai 55, insomma quella fascia di età attiva. Per quanto riguarda gli anziani, abbiamo già disegnato dei percorsi di impegno in associazioni di volontariato o in assistenza ai bambini, quindi parliamo di un recupero di cittadinanza attiva e quindi tante iniziative. Non manderemo un ottantenne alla catena di montaggio, certo. Ecco. Però ci sono tanti anziani soli, le assicuro, che hanno anche bisogno che qualcuno pensi a loro o certo. Di occupare insomma, qualche ora della propria giornata. Quindi diventa, altrimenti... diventa quasi una doppia opportunità, cioè quella del sostegno al reddito, ma esatto. Anche di disegnare un percorso che prevede l'impiego, l'occupazione del tempo anche all'interno esatto. Della società volontaria, non occupazione professionale, un'altra cosa. E non per forza lavoro, cioè, la cosa bella di questo progetto mi sembra che si leghi anche a un progetto di inclusione sociale, inclusione, quindi esatto. Di non lasciare le persone ai margini, nel senso che non è che si chiede di lavorare e pagare in cambio del lavoro, ma di stare all'interno della società e non di chiamarsi fuori e pigliare i propri 400 euro e salutare tutti. Esattamente, lo dite meglio di me, siete ecco, bravo, no. Allora però le faccio subito una domanda difficile, un altro ascoltatore ci scrive: Gualmini, però sono spariti i buoni casa per le giovani coppie, è possibile in Emilia Romagna? Ah, no, il bando l'abbiamo fatto appena siamo entrati in giunta e quindi abbiamo stanziato 13 milioni per ci le sono. Giovani coppie, sostanzialmente un contributo economico per chi vuole acquistare perfetto. La prima casa. Prevediamo di rifarlo, non nel 2017, dateci un po' di respiro, ma insomma entro fine legislatura vediamo di lavorarci sì. Sopra di nuovo. Mi raccomando, date continuità a queste che sono delle certo. Misure sicuramente positive, perché così uno può pianificare un po' anche la propria, non dico esistenza, ma alcuni aspetti sulla base di queste ragionevoli previsioni. Grazie per essere stato con noi, Gualmini. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. 800 24 0024, cari ascoltatori, vi ha convinto questa proposta? Si può fare un reddito di solidarietà, 400 euro al mese fino a 12 mesi, rinnovabili almeno in parte per chi guadagna meno di 3.000 euro all'anno. E questo è l'iniziativa del welfare dell'Emilia Romagna. Noi vi aspettiamo tra... Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Si può fare, si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Oh, allora, siccome è quasi Natale, vogliamo scaldare i motori in vista delle mangiate che faremo a Natale. E parliamo di ricette, perché c'è la classifica di Google delle ricette più googolate, più ricercate sul motore di ricerca da parte degli italiani. Vince, pensate, il tiramisù. La maggiore curiosità sia... accentrano su questa ricetta, perché come in realtà da quello che ti dicono sempre ricette. Ti dicono ma è semplice fare il tiramisù, e quindi è quella classica cosa che uno dice: se devo fare una torta, non parlo per me che so fare solo le uova sode, io però so in che generale mia moglie sa fare il tiramisù, me lo ha detto quando ci siamo conosciuti. Te l'ha detto e poi non te l'ha mai fatto? C'è questa leggenda che lei sa fare il tiramisù, però io non l'ho praticamente mai assaggiato. O forse una volta, forse potremmo rinnovarla questa tradizione. Allora, cari ascoltatori, noi vi chiediamo: prima in classifica è la tiramisù, poi c'è la peperonata, le zucchine in carpione, poi per esempio come si fa il pane sardo, il pane carasau. Allora, se voi volete che una delle vostre ricette che amate di più, tipiche della vostra regione, entri nella classifica di Google, chiamateci, ditelo, così noi ci metteremo tutti a googolare, e così poi nella classifica dell'anno prossimo ci sarà e potremo parlare anche della vostra ricetta del cuore. Quindi chiamateci 800 24 0024 con la vostra ricetta del cuore. Abbiamo un ascoltatore in linea, sì, vediamo un po' se lo trovo, non mi si apre la schermata, tu ce l'hai Carlo? Angelo da Roma, eccolo qua, buongiorno Angelo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Detto che mi avete fatto venire fame, comunque chiedevate un commento sull'iniziativa dell'assessore dell'Emilia Romagna, se sì, ho capito bene. Certo. Ecco, direi che dopo aver trascorso una giornata in cui non si è parlato altro di corruzione, incapacità amministrativa, bravo, eccetera, una cosa di questo genere solleva un po' l'anima, diciamo. L'intenzione era quella anche. Grazie, vi ringraziamo. E devo dire che trovo ridicola la posizione delle forze d'opposizione, perché e dimostra che in un paese come questo è difficile fare progressi, evolvere, sì, perché di fronte ad un'iniziativa così ragionevole, così razionale, così giusta, la forza politica che perora un'iniziativa di questo genere dal momento in cui è nata, che fa? Si astiene. Ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Allora, così. Angelo, io sono d'accordo, ti ho lasciato parlare e mi sembra giusto che tu abbia espresso. Poi, naturalmente, ogni forza politica ha i suoi distinguo, questo è giusto. Ma ci sono le campagne elettorali, ognuno della ha i suoi politica, programmi, ognuno è libero di votare quello che gli pare, di non votare. In questo caso, abbiamo detto, il Movimento 5 Stelle si è astenuto su un provvedimento che è simile, ma diverso dal loro punto di vista, a quello che è il loro cavallo di battaglia, il reddito di cittadinanza. Al di là di tutto, questo appello che tu fai, Angelo, è giusto. Giustizia andrebbe fatto a tutti, non soltanto in questo caso a chi non ha votato il provvedimento reddito solidarietà in Emilia Romagna, a tutte le forze politiche in generale. Io ho detto: bisogna poter pianificare, è come il bonus bebè, arriva un anno, poi l'anno dopo se ne va. Come fai tu razionalmente a poter pianificare? Non dico di fare un figlio, ma insomma a viverlo come un incentivo a fare un figlio, se questa cosa oggi c'è e domani non c'è. Ci vorrebbe su queste cose di sostegno ai più poveri, alle fasce più bisognose, unità di intenti, sempre e comunque. Sì, questa sarebbe la prova di maturità. E soprattutto direi che la cosa più importante è che bisogna fare le cose buone invece che cercare di intestarsi le cose buone. Se una cosa è buona ed è buona per i cittadini, è buona e va bene, invece che cercare di intestarsi delle vittorie, quindi se la vota qualcun altro dire no, allora a me non piace più perché la voglio fare io nel momento che sarò io al potere. E va bene, Angelo, grazie per averci chiamato all'800 24 0024, dove comunque aspettiamo. Angelo, ci sei ancora? No, non c'è più. No, la ricetta, volevo sentire se oltre ad essere divenuta fame aveva è andato a cucinare, Angelo, aveva famissima, ce l'ha detto, è andato secondo me di corsa a cucinare googlando quale ricetta. Ditecelo voi. Non è mai voi troppo presto, anche se sono le 8 e 45 minuti di sabato mattina, per chiamarci e dirci la vostra ricetta del cuore che voleste che entri nella classifica di Google tra le ricette più ricercate. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, questa Up and Up dei Coldplay, che nel ritornello avete sentito dice ce la faremo insieme, ce la faremo a salvare l'Ermo Colle, quello di Leopardi, perché devi sapere, caro Carlo, che siamo in una zona che è vicina a quella lambita dal terremoto. Certo. E l'Ermo Colle stava franando. Non solo per il terremoto, ma anche per... Scende di 2 centimetri all'anno, ho visto. All'anno. E insomma, al giorno sarebbe stato un po' troppo grave. Allora, ne parliamo col sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, c'è un accordo siglato al Ministero dell'Ambiente che prevede proprio anche uno stanziamento, finalmente, per ridare vita a questo luogo importante della cultura italiana. Però intanto le voglio fare una domanda, ammetto la mia ignoranza, ma siamo proprio sicuri che sia quello il punto, sia in qualche modo veramente quello il punto a cui sommo Giacomo Leopardi faceva riferimento quando scrisse L'Infinito? Assolutamente sì, può essere calpestato, quindi si possono vivere le stesse emozioni e soprattutto apprezzare lo stesso panorama, quello dei Monti Sibillini. Ma perché lui aveva lasciato una quasi una mappa, una cartina geografica della zona? No, perché ci abbiamo questa certezza? Diciamo che l'orto delle suore del convento di Santo Stefano, sì, un convento che era confinante rispetto alla dimora nobiliare della famiglia Leopardi, era il giardino sul quale Giacomo passeggiava, anche se oggi la parte che viene visitata con la scritta sempre caro mi fu quest'Ermo Colle è la parte sottostante l'orto, quindi in questo progetto di recupero vogliamo rendere fruibile anche l'orto, potremmo dire il vero Colle dell'Infinito storicamente parlando. Quindi il contesto nel quale il colle, che il guardo esclude, eccetera, eccetera, si inserisce. Quindi noi abbiamo la certezza che il poeta passeggiasse proprio in quei paraggi. Quindi quello è il colle. Ecco, detto questo, lo ha spiegato a me, insomma, credo a tutti che magari non conoscevano esattamente questa storia, che però è una storia bellissima, importantissima della nostra cultura. Ci spiega in che condizioni è oggi e invece come prevedete di rilanciare questo sito? Sì, avete esordito dicendo ce la facciamo a rendere sicuro per i secoli il Colle dell'Infinito. Chiaramente Recanati è una città che si è sviluppata in collina, un po' è la morfologia della regione Marche, ma potremmo dire di buona parte dell'Italia, quindi un movimento franoso, naturale, che c'è da tanto tempo, che produce questo slittamento di 2 centimetri d'anno. Noi lo abbiamo indagato dal punto di vista geologico e quindi abbiamo prodotto un progetto al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Ambiente, perché è doppio l'intervento sul Colle dell'Infinito. Il ministro Galletti si occupa della parte idrogeologica, quindi del consolidamento di tutto il versante del Colle dell'Infinito, un intervento importante con un investimento di 6 milioni di euro, mentre il ministro Franceschini ci aiuterà nel restyling del Colle dell'Infinito, quindi la parte botanica, delle vie, delle mura, dell'illuminazione, dei percorsi, della sicurezza, quindi il parco Colle dell'Infinito. Quindi dobbiamo ringraziare i due ministri perché sono stati molto attenti, molto sensibili e soprattutto veloci, perché fortuna voluto per il colle settimane, che sono stati riconfermati tutti e due, fortuna per, almeno diciamo per il colle, per il resto poi abbiamo incrociato le dita, anche se gli atti sono stati prodotti prima dell'appuntamento che è un po' ha movimentato la politica italiana. Beh, insomma. Ma adesso invece c'è questo progetto di illuminarlo addirittura con le luci di Dante Ferretti, giusto? Una cosa da Oscar. Sì, Dante Ferretti tra qualche minuto sarà qui a Recanati, quindi trascorrerà. Sì, lo diamo proprio in diretta. Fantastico. Sta viaggiando da Roma verso Recanati, è un marchigiano che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Quindi ricordiamo un gigantesco direttore della fotografia, vincitore dell'Oscar. Più di un Oscar. Un grande. Tre volte premio Oscar, quindi un grande Dante Ferretti che grazie anche alla collaborazione della I. Guzzini Illuminazione. Esatto, come scenografo, chiedo scusa, perché in realtà l'ha vinto come scenografo. Direi Ferretti sia forse sì, come fotografie, luci e scenografie, sì. Questa collaborazione nasce con l'impegno delle aziende del territorio, perché Recanati, Leopardi, Gigli, Lorenzo Lotto, ma è soprattutto l'impresa creativa. Quindi grazie alla Iguzzini Illuminazione, a Dante Ferretti immaginerà qualcosa sul colle dell'infinito. Quindi lei la sa, no? L'infinito la sa? Se gli chiedo di recitarla, diciamo per compiti istituzionali, perché me l'hanno chiesta talmente tante volte. È obbligatoria. Ce la faccia all'inizio, dai. Sempre caro mi fu questo ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Poi ho memorizzato anche le altre. Ma sedendo e mirando, vabbè. È perfetto. Tutta la città di Recanati, voi prima mi chiedevate, ma il colle dell'infinito esiste realmente? Tutta la città di Recanati è il racconto di Giacomo Leopardi, perché ogni luogo, ogni parla via, di lui, parla di lui, ci parla della sua poetica. Quindi la passeggiata per Recanati praticamente è ricostruire quello che si è studiato a scuola e che adesso riviviamo in maniera ancora più dinamica, direi, ed energica, grazie al film Il giovane favoloso di Mario Martone, che ha costituito giusto, che è un film anche abbastanza recente. Noi la ringraziamo, sindaco. Grazie mille. Per essere stato noi, complimenti. E ci saluti, rinasce. Dante Ferretti. Gli chiedo scusa perché ho detto direttore della fotografia, invece, ovviamente, è scenografo. Capita alle 8:54 del sabato mattina. Michele da Bari con la sua ricetta, però non so se abbiamo il tempo. Regia, ce l'abbiamo il tempo? Sì, vai, Michele. Buongiorno. Veloce. È della serie Mensana in corpore sano, cozze e rape da Bari. Le rape le fai stufare e le cozze le fai cuocere a parte e poi le metti insieme. In aggiunta, col pomodoro? Col pomodoro senza? Senza pomodoro. Uno o due pomodorini giusto per dar colore e per il 24 poi subito dopo i panzerotti. Io cozze e rape, guarda, mi sa che a Natale lo faccio. Grazie, mi è venuta Michele, fame, bellissima. Grazie mille. Ciao, 800 24 00 24, a dopo. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Abbiamo riesumato questo con le mani di Zucchero. Zucchero. Perché si fa tutto. Perché con le mani, anzi faceva tutto con le mani, adesso si destreggia con le stampanti in 3D. È con noi Giovanni Muciaccia. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Che belle voci squillanti che avete a quest'ora. Noi siamo svegli da un po'. Siamo svegli da un po', è per quello. Io invece sono cascato dal letto, perché qui il sabato e la domenica sono gli unici due giorni in cui si dorme un po', perché i bambini non vanno a scuola, quindi sono ancora un po' impastato, scusate. Hai una bella famiglia, noi ci siamo intromessi, facciamo gli intrusi, come ogni sabato mattina svegliamo della gente abbastanza presto per chiacchierare con noi. Da Art Attack a X-Makers, il nuovo programma che debutta, anzi no, la seconda stagione su Dea Kids, iniziate credo il 22 dicembre con la seconda edizione, alle 10:30 del mattino, in tempo di vacanze, e poi anche il pomeriggio con una replica. Art Attack, vabbè Giovanni, tu Ma vai in diretta alle 10:30, no? No, il problema è registrare. Iniziamo a girare alle 10, quindi... Va bene. Volevamo dare... Ho degli orari più tranquilli, ma guarda, in settimana ho avuto una di quelle cose che ricorderò a vita, la sveglia alle 5:55, perché sono andato a Edicola Fiore, e quindi è stata una botta che ricorderò per parecchio tempo. Ma non una botta di vita, una botta proprio sul collo. Alle 7:07 di mattina da Fiore c'era gente che ballava come se fosse in discoteca a mezzanotte, un'energia incredibile. Ma loro arrivano lunghi dalla notte precedente, giustamente. Fiorello Rondò. Direi che Edicola Fiore ha minato un sacco di carriere, perché uno appunto si sveglia alle 5:55 e poi non lavora più per un anno. Esatto. E poi che figura fai andare in onda alle 6 del mattino? Una figura pessima. Non tu, Giovanni. Comunque c'è tanta gente che si sveglia molto presto, noi stiamo facendo presto, sì. In effetti giusto questo dirlo, giusto ricordarlo. Noi solo il sabato e la domenica, Alessio ed io. Allora, visto che tra l'altro questo ministro qua dell'istruzione c'ha pure qualche problema col diploma, perché pare che non abbia la laurea, poi ha scritto che c'ha il diploma. Ma Giovanni Mucciaccia, che fa la TV educativa, la TV istruttiva, la TV formativa da tanto tempo per i bambini, adesso addirittura con la Digital Fabrication, di cui ci parlerai tra... Ministro dell'istruzione potrebbe starci. Ma guarda, io il diploma ce l'ho, quindi insomma diciamo di sì, almeno quello. Almeno quello. Senti, sì, guarda, mi occupo di Digital Fabrication da un paio d'anni con questo programma che si chiama X-Makers, che è in onda con Dea Kids, è una seconda collaborazione con loro, perché avevo già girato un programma che si chiama Freestyle tutta un'altra stanza, avevamo fatto tre edizioni in questo programma, adesso continuiamo diciamo questo discorso con un altro nuovo programma che si occupa appunto di digital fabrication, di stampanti 3D, ma soprattutto vuole intercettare le nuove generazioni, perché X-Makers è un po' il programma che mancava, no? Cioè i ragazzi, i bambini di oggi nascono immersi nella tecnologia. Giusto. Sono appunto dei nativi digitali, però se ne parla pochissimo in TV. Non sanno bene come funziona, no? E quindi quello che cerchiamo di fare è proprio questo, cioè fare un po' quello che facevamo tutti da piccoli, smontare i giocattoli. Però in questo caso poi li trasformiamo e li facciamo diventare, non so, una macchina radiocomandata, la trasformiamo in un drone, no? E quindi la implementiamo, la trasformiamo con dei contenuti tecnologici anche molto interessanti, tipo c'è il giardiniere automatico. Io sono molto attratto da questa cosa. Sì, pure. Beh, ma guarda, ti dirò di più, abbiamo fatto una mano robotica che secondo me è veramente un fiore all'occhiello. Cioè, abbiamo costruito le parti che compongono una mano con una stampante 3D e poi indossando un guanto la mano si muove in modo speculare al guanto. E in realtà se tu hai una stampante 3D a casa, noi ti insegniamo diciamo dei passaggi per poterla riprodurre. Tu hai accompagnato una generazione di persone a questo punto, dalla manualità di Art Attack proprio all'era digitale, cioè ti rendi conto? Beh sì, io sono stato molto fortunato, insomma diciamo che ho saputo anche aspettare, perché poi nel mio mestiere bisogna un po' anche a volte rifiutare cose che ti portano verso altre strade, ma cercare, come dire, di conservare una coerenza fino a quello che ti renda anche riconoscibile al tuo pubblico, e quindi diciamo che sono stato fortunato, perché poi delle persone hanno inventato X-Makers e mi hanno coinvolto in questo progetto e sono contentissimo. Perché tra l'altro per me... X-Makers, sarebbe il fattore... Beh sì, una sorta sì di fattore X, fattore, no? X. Dei costruttori, no? Degli inventori, makers sta per costruttori, per inventori, sì. Cioè, una sorta di genialità, diciamo. No? Tu hai due bambini, se ricordo sì, bene. Sì, io ho un bambino. Però questa cosa della manualità però esiste ancora, cioè non è che con le stampanti in 3D, col digitale stanno solo sullo smartphone, perché i bambini hanno voglia di pasticciare. Ma si parte da lì, infatti è questo, il bello è proprio questo, che in qualche modo tu ci hai accompagnato, hai fatto la storia dell'umanità, nel senso che si inizia costruendo con due legnetti e adesso invece si schiaccia un bottone e si producono due legnetti peraltro, quindi... Sì, Mago, è bello. Intanto Art Attack è ancora in onda su Rai Yo-Yo, in onda sui canali Disney, quindi stiamo crescendo anche le nuove generazioni. La mia prima generazione di bambini oggi ha 27 anni, la mia ultima generazione ne ha 3-4. Il programma continua ad andare benissimo, continua a piacere, quindi comunque la manualità poi soprattutto in Italia noi ce l'abbiamo un po' geneticamente, siamo degli artisti, non c'è niente da fare. Degli artigiani. Degli artigiani, degli artigiani bravissimi, straordinari, peccato anche insomma questa cosa si sta pure un po' perdendo, però dell'artigianato, però insomma lo siamo dentro, abbiamo voglia di soggetti, cioè, ti dirò di più, c'è una tendenza oggi fortissima in internet ai tutorial, sta tornando, se tu pensi a Art Attack è stato proprio il primo tutorial programma, sì, proprio sai l'inquadratura quella, il conduttore e poi inquadratura delle mani, le mani. Questo stereotipo è diventato uno stereotipo televisivo, comunque un modulo narrativo televisivo, e lo vedi oggi in internet, nei tutorial che vanno alla grande, quindi c'è ancora tanta voglia di fare, non solo da parte dei bambini, ma anche dei grandi. Senti, stai ancora, se hai tempo, qualche minuto con noi, non ti addormentare. Nel frattempo, non farti avvolgere dagli abbacoccoli dei tuoi bambini, perché sei appena stato ad Arquata del Tronto, tra l'altro nelle zone terremotate, ad inaugurare una scuola. Vogliamo chiederti com'è andata anche questa esperienza. A tra poco. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9 e 18 minuti di sabato mattina, ben ritrovati cari ascoltatori, insieme a Giovanni Muciaccia. Giovanni, sei, dicevo, stato da poco a Arquata del Tronto a presenziare alla consegna di una scuola. Era una scuola vera o era stampata anche quella in 3D? Beh, guarda, ci manca poco, perché le stampanti 3D stampano pure le case ormai, cioè stampano dei moduli che poi assemblati danno vita a delle case. Certo, parliamo di stampanti di grosse dimensioni, ce n'era una, la Maker Faire dell'anno scorso, stampanti di questo tipo. Il momento stupendo sarà quando le stampanti in 3D stamperanno stampanti in 3D. Beh sì, sicuramente la macchina che replica se stessa, si chiude il cerchio. La fantascienza di Asimov, di Philip Dick, di Robert A. Heinlein, cioè, ma ormai ci siamo in quel mondo lì, perché comunque viviamo nel mondo degli androidi, cioè mio figlio è nato nell'era dell'androide, l'androide segna una linea di demarcazione netta, precisa. Ma tu che rapporto hai tu proprio con le nuove tecnologie digitali, con i social network? Guarda, io sono figlio della generazione del Commodore 64, quindi ho giocato molto ai videogame, poi a un certo punto ho abbandonato e non ne tocco uno da anni, perché so che se ci gioco ci casco dentro e ho finito. E soprattutto però, devi recuperare talmente tanto che secondo me se ci caschi dentro veramente ci sentiamo fra 15 anni. Esatto, soprattutto. No, guarda, diciamo era buono, insomma un rapporto normale, comunque non sono uno smanettone, però me la cavo e mi piace, mi affascina, insomma tutto quello che poi è tecnologico. Non sono un malato, cioè dell'ultimo, sai, ci stai dentro, anche perché sì, così segui l'evoluzione dei tuoi figli. Ma dicevi sei in mezzo, dai, diciamo alla sufficienza. Ma tu dicevi ti fermano, cioè la generazione di quelli che sono cresciuti con te adesso hanno 27 anni, qualcosa anche di più, sì. Forse perché sì. il primo Art Attack di quanti anni sono passati? Il primo Art Attack è andato in onda sui canali Disney, che anche all'epoca erano a pagamento, nel 1998, però è approdato in Rai nel 2000, e poi da lì il grande successo di pubblico. Ti fermano ancora per strada questi che adesso sono diventati quasi di 40 anni? No, mi fermano soprattutto loro, capito? Cioè anche i bambini, però loro che sono rimasti legati a quell'esperienza lì, ma che è la loro infanzia. A parte mi scrivono delle cose bellissime su Facebook sulla mia pagina, ma anche proprio commoventi, perché io io per loro, sai, rappresento l'infanzia, un po' come per me, non lo so, mi viene un parallelismo che forse non regge, però se penso a un personaggio fisico penso a Fonti, no? Cioè io se incontrassi Fonti adesso mi butterei per terra. Certo, cioè, ma è vero che tu vai in giro spesso quando vai in luoghi pubblici, per esempio tu sei un appassionato d'arte, sì. Quando vai alle mostre spesso ti metti degli occhiali scuti camuffi perché sennò non riesci a fare una passeggiata, no, perché ti fermano. Sì, perché, no, perché ci sono le gite scolastiche. No, guarda, in realtà io nelle mostre d'arte indosso una mascherina, cioè hai presente quelle, le mascherine, quelle dei giapponesi che trovi negli aeroporti? Sì. Ecco, io vado in giro con quella cosa. Ma lì, quelle per dormire in aereo, no, perché quelle non hanno le fessure. No, le mascherine quelle per non respirare le polveri sottili. No, perché? Per due motivi fondamentali. Sì. Primo, che nelle mostre purtroppo becchi dei virus che sono proprio modificati, cioè di quelli che ti entrano dentro, per eliminarli, non lo so. Ma che ci sono solo nelle mostre, cioè sono dei virus, no, particolari, degli appassionati d'arte. Sono resistenti all'arte, quindi sono... Esatto, sono quelli che girano nell'aria condizionata, che non riesce a debellare. Poi lì, appunto, proprio perché nelle mostre ci sono le opere d'arte, cioè aprono mostre, aleggiano poco gli ambienti. Ma perché sei un fanatico dell'igiene tu, quindi? No, non sono fanatico dell'igiene, però mi sono beccato delle febbri paurose e quindi mi sono stufato di questa cosa, per cui mi metto sei corso ai ripari. E indossando la mascherina chiaramente non mi riconoscono, quindi io vedo due piccioni con una fava. Certo, notano questo strano con la mascherina. Temo che adesso ti conviene modificare travestimento, perché se no tutti alle mostre quando vedono uno con la mascherina diranno esatto, è mucciaccia di sicuro, invece magari è un giapponese che Ma senti, esatto. Ma tu è vero che sei anche un collezionista, hai delle opere, sì, anche d'arte, sì, contemporanea, sì, cos'hai? Sì, io sono un collezionista e un appassionato d'arte contemporanea da un po' di anni. È un mondo che purtroppo si conosce poco perché non ci viene insegnato a scuola e anche in televisione se ne parla molto poco. Sì, perché ci si ferma sempre col programma al massimo al 1600, al barocco. Sì, esatto, che va benissimo, è meraviglioso, la nostra tradizione, la nostra storia, noi grandi pittori italiani e non solo, che per carità, cioè va benissimo, però il problema è che poi la gente, le persone mediamente perdono tutto il resto, non conoscono tutto il resto. Ed è più difficile poi comprarsi un Caravaggio piuttosto che... Sicuramente. Vado a prendermi un Caravaggio che l'ho studiato. Sicuramente, anche se ti dico ci sono artisti contemporanei italiani viventi che non scherzano, sono sui livelli di Caravaggio, cioè 2, 3, 4 milioni di ma euro. Ma tu hai delle firme, hai un Cascella, hai un Fontana a casa, hai qualcosa, no? No, io ho delle cose io ho delle cose dell'arte cinetica, dell'arte? Arte cinetica. Sono artisti, un gruppo fondato a Padova in Italia, il gruppo N, sì, nel 62, ho delle opere del Caposcuola che è Alberto Biasi, ho delle cose, sì, di Tony Costa, certo, poi colleziono Luigi Ontani, insomma, certo, un artista tedesco, un artista argentino, insomma un po' di cose di questo tipo. Che va bene, cioè bastano e avanzano, cioè, sono la tua pensione, questi sono i tuoi investimenti per la tua pensione del futuro. Spero che siano almeno l'università di mio figlio in futuro, poi vedremo. C'è qualche mostra, per esempio, magari di arte contemporanea, visto che appunto se ne parla meno, che in giro per l'Italia che consigli? Guarda, io in questo periodo ne ho viste varie. Per esempio a Milano da vedere ci sarebbe Escher, c'è la mostra di Hokusai Hiroshige. In questo mese sono stato alla Gandhi Torino, bellissima, sono ritornato al Museo del Novecento di Milano, ho visto la personale di Carol Rama che è un artista torinese sconosciuta al grande pubblico, ho visto la personale di Alberto Biasi che è uno degli artisti che io colleziono, però se ti devo dire proprio una mostra da visitare secondo me dalla quale sono rimasto folgorato è la mostra di Arnaldo Pomodoro a Palazzo Reale di Milano, che è una cosa meravigliosa. Per Milano una figura importante questa qua, perché ha fatto tante cose per la città, cioè, e quindi veramente artista internazionale, l'hanno fatta per i suoi 90 anni, perché certo, Pomodoro è del 26 ed è bellissimo perché ci sono 30 opere esposte in una sala storica del Palazzo Reale, che è la sala delle Cariatidi, ma è il clima che tu vivi entrando in questa sala con queste sculture bronze, no, dorate, tipiche di Pomodoro, che riflettono una luce artificiale è un clima speciale, è veramente è come se venissi rapito e trasportato in un'altra dimensione. Guarda, io ti sto seguendo quasi come se seguissi un grande esperto d'arte, con questo Giovanni Muciaccio, esperto d'arte, critico quasi d'arte a questo punto. No, ma scherzi, no, ma assolutamente, io sono solo un appassionato, sono uno che studia per diletto, non sono, anzi ci tengo a precisare che non sono uno storico dell'arte, io sono un appassionato, fortemente appassionato, malato d'arte, va, mettiamola così. Ci piace così, ci piace così, grazie anche per questi suggerimenti. Grazie mille. E poi scusami, no, una cosa sola volevo aggiungere sul pomodoro, cioè che si possono fare le foto. Ecco, capito? Perché cioè, normalmente non si possono fare spesso le foto. Normalmente ti tagliano una mano e addirittura ci sono. Tu puoi chiedere la foto all'addetto alla sicurezza, puoi chiedere cortesemente, mi fa una foto. So soddisfazione, ragazzi. Cioè, bello, finalmente una mostra dove ci si può fare la foto. Andiamo a vedere la mostra di pomodoro e speriamo di portarci a casa una foto con Giovanni Muciaccia con la mascherina. Quello comunque è vero, io sono stato recentemente a una mostra a Venezia e volevo fare una foto e avevo paura di farla perché mi immaginavo una tagliola che mi tagliava immediatamente la mano. Sono riuscito a farla, non so se era legale o no, però. Perché c'è sempre la solita storia che ti devono vendere i libri, le cartoline, l'attacchino da frigo, capito? Dove sei stato? Alla Peggy Guggenheim. Bravo, esatto. Alla Peggy Guggenheim te le tagliano tutte e due le mani. Però io una foto l'ho fatta, o almeno una, sono riuscito. E ti stai autodenunciando e penso che ti verranno a prendere alle 10 quando chiudiamo. All'uscita da Via Monterosa. Grazie Giovanni Muciaccia. Grazie mille. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di X-Makers, questo programma dedicato alla digital fabrication su Dea Kids a partire dal 22 dicembre. Allora, abbiamo un po' di ascoltatori in linea, anche perché tra poco faremo il crowdfunding, il crowd me up, e chiediamo agli ascoltatori di fare i giurati e di valutare i nostri progetti che ricercano un finanziamento dal basso. Iniziamo con Rosangela che chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Una bellissima chiacchierata, proprio molto istruito questo signore. Bene, ci fa piacere che ti sia piaciuto Giovanni Muciaccia. Rosangela, sì, su cosa volevi intervenire? Ma io volevo intervenire con una ricettina, dato che siamo una ricetta di salsiccia con la cipolla. Una cosa leggera, leggerezza. Sì, deve essere così perché fa un freddo boia. Giusto, prima giusto. Qui dove abito io, che c'è tutto bianco, il gelato, prima di tutto. Ma com'è sta ricetta? Il portafoglio, sai, invece due salsicce di maiale. Costa un poco, ce li possiamo permettere quasi tutti. La cipolla, una bella polenta un po' dura, perché non ci vuole tenera come l'arrosto, ci vuole una polentina che stia in piedi, capito? Certo. E intanto stiamo nel campo. La polentina che stia in piedi mi piace. Mi piace. Sarà che mi sta venendo fame, Rosangela, vabbè. Adesso ti faccio venire proprio fame. Allora, posso iniziare? Devi declamare la ricetta, però in pochi secondi, in pochi secondi. Sì. Cipolle, salsiccia, un po' di olio e vino rosso. Tutto insieme, così? Una spiga di aglio, no. Prima prendo la cipolla, la taglio a tocchetti non sottili, ma ci vogliono le boretane. Le cipolle boretane? Boretane, sì, perché ci vogliono quelle. Perfetto. Allora le taglio a tocchetti dopo che le ho pulite e poi le metto con un filo di olio nella padella, le faccio un po' appassire e poi prendo la salsiccia e la faccio scottare, perché devo pelarla, ecco, la pelo, la taglio a tocchetti, la metto nel tutto. E dopo, quando che si è appassito un po' tutto, ci metto un mezzo bicchiere di vino rosso, perché col maiale si vuole il vino rosso. Certo. Questa è una vera ricetta. Rosangela, resta con noi perché tra poco fai anche, se vuoi, da giurato per Crowd Me Up. Abbiamo altri ascoltatori? No, dopo la pubblicità. Allora. Comunque è perfetto, nel senso che avremo su Google, noi potremo mettere salsiccia con cipolle e ci sarà il podcast di questa trasmissione con la voce di Rosangela che vi spiega come si fa. La ricetta, la vera ricetta, cozze e rape abbiamo avuto, salsicce con cipolla, poi qualcos'altro adesso non mi ricordo. Continuate a chiamare ascoltatori 800 24 00 24, così le vostre ricette entreranno nelle ricerche di Google e l'anno prossimo, quando verrà stilata la classifica, ci saranno anche loro. Si può fare. Cronache da un paese migliore.

cioè in zone che comunque hanno anche dei problemi dal punto di vista del dissesto idrogeologico, che quindi hanno anche questa utilità. Ma sono certo. alberi quindi italiani che vengono da provengono sì, sì, assolutamente sono alberi italiani, quindi in commercio alberi... oggi si trovano più alberi italiani che io sapevo alberi che venivano dalla Svezia piuttosto che chissà dove, dalla Transilvania. No. Ci sono dei cartellini che devono essere affissi a questi alberi, perché sono alberi che vengono da coltivazioni dedicate, come si diceva prima. Per il 90% sono coltivazioni specifiche, c'è un 10% che invece sono piante che provengono dalla cosiddetta pratica degli sfogli, dei diradamenti, ovvero sia quelli che vengono tolti per permettere che le piante che poi rimangono a dimora possano crescere e svilupparsi in maniera adeguata. Ma stiamo, quindi, parlando di alberi veri, ovvero con le radici, o stiamo parlando di alberi che sono dei pezzi di abete, diciamo, le punte tagliate? Stiamo parlando essenzialmente di alberi con le radici, che possono essere col pane di terra, quindi una rete che avvolge le radici, oppure possono essere in vaso. E poi dopo cosa si fa? Mi scusi, perché io sono uno di quelli che ha l'albero sintetico, quindi sono preoccupatissimo intanto di aver sbagliato. Anch'io, ma il motivo è che non sai mai poi dopo... Cosa si fa con quest'albero? Con questi alberi si possono fare diverse cose. Innanzitutto la dimensione dell'albero è fondamentale, perché se ovviamente noi compriamo un albero che è troppo grande per casa nostra, rischiamo poi di doverlo tagliare o buttare via, e quindi è un problema. Quindi prima cosa nella scelta dell'albero, comprare delle dimensioni giuste per il luogo dove poi verrà messo. Questo albero deve essere posto lontano dai termosifoni, deve essere lasciato ambientare prima di mettere gli addobbi natalizi, in modo tale che possa respirare e possa adattarsi all'ambiente. Quanti giorni? Quanto tempo ci vuole? Un paio di giorni. Okay, questo poi, quando lo addobbiamo, dobbiamo evitare di coprirlo con spray o comunque con prodotti che possano, diciamo così, pregiudicarne quella che è la normale attività di respirazione fotosintetica, eccetera, eccetera. Appunto, perché è un albero vivo e non è di plastica. Proprio perché è un albero vivo. Sì. E poi, ma ci dica dopo, ci dica dell'epifania. Allora, dopo una volta che sono passate le feste, andiamo anche dopo, oltre l'epifania, noi abbiamo due possibilità. Allora, una prima possibilità è che se abbiamo un giardino, se abbiamo comunque una casa in cui questo albero poi può essere messo di moda, possiamo tenercelo e farlo crescere per così abbellire il nostro giardino. E poi l'anno dopo lo spiantiamo e ce lo riportiamo in casa? O se no lo possiamo semplicemente addobbare nel giardino. Se uno ha il giardino, l'albero in effetti lo fa in giardino. Ma se uno non ha il giardino... Io credo che non siano molti quelli che hanno il giardino. Se uno ovviamente non ha il giardino, ce l'ha nessuno, sì? A questo punto può restituire l'albero, perché comunque ci sono... o garden oppure anche uffici della forestale che riprendono questi alberi per dargli poi una destinazione congrua. Ma ti ridanno indietro i soldi? Mi scusi la domanda un po' veniale. I soldi non vengono ridati indietro. Quindi in pratica uno paga un albero, ma in realtà è un affitto. A meno che non ci sia un accordo con qualche vivaista che vi affitta l'albero, alle volte viene fatto anche questo, nel senso che alle volte per addobbare, non so, particolari ricorrenze, manifestazioni, una conferenza stampa o cose del genere, ci sono anche vivaisti che affittano le piante. Cioè, diciamo, Bazzana, a questo punto una pianta, per capirsi un attimo chiaramente, questo diventa a questo punto non più comprare l'albero di Natale, un semplice acquisto, o come diceva Carlo, quasi un affitto, perché se la vivi così la vivi male, diventa quasi una donazione che uno fa, cioè compri l'albero, spendi, che ne so, quanto può costare un albero di Natale medio? L'albero di Natale 40-50 euro. Noi abbiamo calcolato che mediamente possono essere sui 32 euro. Alberi da 10 euro, abbiamo alberi che possono arrivare a 200 euro. Okay. Allora, fermiamoci alle cifre, diciamo, umane. Uno spende 30 euro e sa in qualche modo che si godrà l'albero in quelle due settimane, e poi dopo ci si impegna già in partenza sapendo che bisogna andarlo a ripiantare, bisogna trovare un posto dove si reimpianta questo albero, quindi si fa anche una specie di donazione al territorio. Però non è che l'anno prossimo poi il mio albero lo rivendono, è certo che lo ridanno a qualcun altro. Da come mi metto d'accordo, ripeto, ci possono essere degli affitti temporanei, ci possono essere anche addirittura abbiamo dei garden o dei vivaisti che mantengono a pensione queste piante, nel senso che se uno va via ad esempio durante l'estate e ha delle piante in vaso, queste piante le può lasciare dal vivaista per evitare che magari, se sono piante preziose a cui tiene molto, queste piante possano morire, per cui ci può essere il vivaista che va a fare la manutenzione del giardino, oppure gli porto io le piante, come ad esempio potrebbe essere un bonsai, in modo tale che rimangano a pensione nel periodo in cui sono in vacanza. Certo, ma come mai l'albero di plastica non è indicato? L'albero di plastica non è indicato innanzitutto perché nella fase di produzione ovviamente viene consumato, viene della prodotta plastica, certo. CO2, produciamo della plastica quando poi quest'albero si è sfiancato da buttare via per essere diciamo smaltito. Impiega più di 200 anni e poi comunque sono piante che molto spesso sono cose di plastica che molto spesso vengono dall'estero. Ripeto, noi nella fase di produzione e di coltivazione di queste piante facciamo in modo tale da utilizzare la CO2 e queste piante emettono ossigeno. Teniamo presente il blocco delle città che abbiamo avuto nelle scorse settimane per lo smog. Beh, coltivazione di questi piccoli assolutamente, lei dice uno può piante, dare una piccola manina certo, anche con l'albero di Natale. Grazie Bazzara, dobbiamo giusto, chiudere. Giusto, giusto. Questa era la storia, la vera storia dell'albero di Natale, oggi a Radio 24. Leonardo D'Ancona, una ricetta per chiudere la puntata di oggi. Vai Leonardo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, sono camionista e sono abituato d'inverno a cucinarmi la polenta del camionista. Com'è? È molto semplice. Hai pochi secondi però, Leonardo. Certo, siccome il camionista ha poche mezzi a disposizione, un fornellino e un tegamino, faccio soffriggere un porro lungo un pollice tagliato a rondelline, dopodiché mezzo spicchio d'aglio. Quando è bello soffritto, aggiungo mezzo tegamino di vino bianco, quando è caldo il sugo di pomodoro e poi cucino possibilmente la polenta bramata. A noi è venuta perfetto, fame. A noi è grazie venuta mille. Fame. E allora facciamo così, dato che questa ricetta è arrivata al photo finish, diremo domani chi vince il gioco di oggi. Giusto. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Colleone oggi in regia. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini e anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.